La versione di Oscar, di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta qui dagli studi di Milano alle 16.31, primi 50 secondi per la versione di Oscar e grazie per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi dico subito i temi della trasmissione per intervenire all'800240024 349-238-6666 per gli sms. La domanda che vi faccio è relativa a una delle polemiche del giorno, anzi da ieri, una polemica che è diventata una polemica internazionale, che riguarda una coda della visita in Italia al presidente dell'Iran Rouhani, e cioè la coda, per così dire, rappresentata dalla copertura delle statue visitate ieri dal presidente iraniano. Questo atto di autocensura dell'arte italiana per non offendere la sua sensibilità, che è diventato immediatamente un caso internazionale e nel mondo sono tutti stupefatti di questo gesto italiano. Diteci come la pensate, diteci, secondo voi è comprensibile, è giusto che per non offendere la sensibilità, senza che, dice lo stesso presidente Rouhani, gli iraniani abbiano chiesto nulla, arriviamo al punto di coprire le statue che dovrebbero rappresentare con fierezza il nostro più grande apporto, quello della cultura, dell'arte, eccetera, all'evoluzione dell'Occidente. Non solo quello, ma insomma, per dire, è noto che il nostro apporto in questo, nei secoli del Rinascimento, prima del Medioevo, è una cosa fantastica. Benissimo, allora come la pensate? È comprensibile? È giusto? Oppure, come hanno scritto alcuni stamattina, per esempio per Luigi Battista sul Corriere, sulla libertà e sui valori, sulla storia, non si tratta, è un atto unilaterale, non di gentilezza o diplomatica, è una cosa che semplicemente attesta il fatto di non essere consapevoli di sé, nel momento nel quale poi i rapporti sono ottimi e il presidente iraniano viene proprio in Italia per primo paese europeo a firmare i nuovi accordi dopo gli accordi di Vienna sull'impegno dell'Iran a non avere uno sviluppo militare per il suo programma nucleare. E noi unilateralmente, dice Pierluigi Battista, invece ci offriamo autocensurati nel nostro ruolo, nel nostro patrimonio nel mondo. Oppure, come ha scritto sul Messaggero oggi Alessandro Campi, poi magari ve ne leggerò qualche frase, è ancora peggio, è una rinuncia vera all'identità, che è sempre un errore, per così dire, perché un conto sono le buone regole diplomatiche, altro conto che noi quando di volta in volta riceviamo capi di Stato, delegazioni politiche straniere, iniziamo a vestirci come loro, tanto per cominciare. Allora, io vi chiedo questo, ma lo sfondo della giornata è la giornata della memoria per la Shoah, ed è una giornata della memoria nella quale chi vuole può darmi anche la sua opinione su questo, perché io sono convinto che nel nostro paese è vero che abbiamo, diciamo, fenomeni di antisemitismo e antisionismo meno rilevanti che in paesi altri europei dove la tradizione resta molto forte, e si vede anche in Francia, per essere chiari. Ma è anche vero che io sono convinto che noi continuiamo ad avere in realtà un problema di questo tipo. Il problema di questo tipo è che, per esempio, io da anni mi auguro che nel giorno della memoria ci sia un rilevante politico nazionale che approfitti del giorno della memoria per ricordare un po' a tutti che anche negli altri 364 giorni non sarebbe poi molto utile dichiarare, come avviene a raffica e catena anche in Italia, boicottaggi di Israele, che non significa sostenere i governi di Israele nelle loro diverse posizioni nel tempo, ma boicottaggi di Israele in quanto tale. E invece l'Italia, quella accademica, quella culturale, quella politica, è ricchissima di esempi di questo tipo. Lasciatemi però, prima di presentarvi l'ospite che oggi con il giornale di cui è vice direttore ha lanciato nei giorni precedenti un'iniziativa proprio per sottolineare l'importanza della giornata della memoria, anche ricordare la coda politica delle statue coperte per autocensura, perché l'incomprensibile dopo l'errore è questo scaricabarile politico in atto, perché la Presidenza del Consiglio ha detto di non saperne nulla e essere presa con il cerimoniale. Il ministro Franceschini ha parlato così. Non era informato né il Presidente del Consiglio né il sottoscritto di quella scelta di coprire le statue. Io penso che ci sarebbero stati facilmente altri modi per non andare contro la sensibilità di un ospite straniero così importante senza questa incomprensibile scelta di coprire le statue. Allora, visto che la politica dichiara dal più alto livello di governo e anche il ministro competente di non aver scelto lei l'autocensura, di non averla adottata lei e con ogni probabilità se la prende con un funzionario di ordine inferiore, comunque la notizia battuta dalle agenzie è che è stata aperta un'indagine amministrativa da parte del segretario generale di Palazzo Chigi. Capite bene che oltre ai commenti internazionali che rimbalzano dai quattro angoli del pianeta sull'Italia che censura le proprie statue, ci aggiungiamo anche l'italianata essere incapace di indicare chi questa decisione l'ha assunta, visto che è un po' difficile immaginare che per una visita diplomatica della delicatezza dell'inizio del tour europeo del presidente iraniano dopo gli accordi sul nucleare, particolari di questo tipo siano affidati a funzionari senza che vengano rivisti da chi ha in mano il programma politico di tutti i particolari più rilevanti della missione. Vedremo lo sviluppo di questo. Certo, non aiuta a dare anche questa una buona immagine dell'Italia. Allora, iniziamo però dalla giornata della memoria, però colleghiamoci anche questo aspetto, perché io ricordo a tutti che l'Iran continua a disconoscere il diritto all'esistenza di Israele. Ecco, questa è la posizione ufficiale dell'Iran in materia di Israele. E con noi il vice direttore del Foglio, Marco Valerio Loprete. Grazie di essere con noi, Marco. Oscar, buonasera agli ascoltatori. Perché voi avete deciso nei giorni scorsi, e lo avete fatto stamattina, avete regalato una kippah a tutti i vostri lettori, però di lanciare questa iniziativa? Siete convinti che nel nostro paese ci sia, come altrove, anche se forse meno visibile, un problema ancora aperto di antisemitismo e antisionismo? Ma lo abbiamo fatto anche perché non sapevamo che sarebbe successo quello che è successo durante la visita di Rouhani, ma nell'appello che ha lanciato il direttore Claudio Cerasa lo scorso 14 gennaio c'era proprio scritto che in Occidente, in Europa, anche in Italia sempre più, per rispetto di qualcuno o per paura di qualcuno, noi vogliamo e tendiamo letteralmente a nascondere, così c'era scritto, altre identità religiose, quelle meno forti, meno protette dal politicamente corretto o da quello che sia, come per esempio è successo agli ebrei di Francia con l'appello di Zvi Ammar, cioè il presidente del concistoro israelita di Marsiglia, che dopo l'ennesimo attacco a inizio gennaio a un insegnante di fede ebraica, un cittadino francese che portava la kippah, ha detto ai fedeli della seconda comunità più grande di Francia: toglietevi questo simbolo, ci rende tutti degli obiettivi. E un po' appunto questa idea di nasconderci è quella che adesso troveremo chi è stato così zelante a Palazzo Chigi da nascondere le statue, ma il concetto è sempre lo stesso: per non offendere qualcuno, per non diventare obiettivi addirittura di attacchi terroristici o simili terroristici, ci nascondiamo, celiamo, ci togliamo la kippah oppure nascondiamo le statue rinascimentali o dell'antica Roma che siano. E quindi questo è un legame diretto, è un problema che riguarda gli ebrei in Francia. In Italia, come dicevi tu, la situazione è molto diversa, ma come vedi la tendenza a nasconderci, a però ritrarsi. Posso chiederti questo, te lo chiedo da giornalista, mi ha molto colpito. A novembre a Milano avvenne un evento, per fortuna non mortale, ma che poteva esserlo vista la gravità delle ferite, cioè un ebreo ortodosso, Nathan Graf, è stato accoltellato e non si è riusciti ad accertare chi lo abbia fatto, e la cosa poi alla luce degli eventi come il Bataclan, tutto quello che è avvenuto da quel momento in poi, questa cosa è praticamente sparita dall'attenzione pubblica italiana. A me continua a colpire che nel più recente evento di tentativo di uccidere un ebreo ortodosso in quanto ebreo ortodosso, la cosa sia finita nel silenziatoio più assoluto e senza alcun tipo di sviluppo, di cui almeno siamo a corrente, da parte degli inquirenti e della procura. Mi sbaglio secondo te? Sono d'accordissimo, è proprio questo il meccanismo che cerchiamo di rompere con, come dicevi tu, con questo omaggio, con questa kippah che trovate allegata al Foglio anche domani e fino a sabato, lo voglio sottolineare. proprio il meccanismo di derubricare a piccole brevi notizie, a piccoli fatti di cronaca, quelli che non sono semplici fatti di cronaca. Quello che citavi tu è un caso, ce ne sono veramente decine di altri, quello di questo insegnante francese a inizio gennaio, chiaramente a sfondo antisemita, è stato fondamentalmente sottaciuto anche dai grandi media italiani. Invece c'è un fenomeno che goccia dopo goccia sta causando anche spostamenti di popolazione. Ci sono, noi ci occupiamo molto come media, dei rifugiati che ovviamente fuggono dalle guerre in Siria e dalle guerre nell'area medio orientale, iniziamo ad avere i primi rifugiati europei, ci sono persone che per la loro fede iniziano a scappare dall'Europa. Questo è un fenomeno di cui ci dovremmo occupare più in Francia, tra l'altro è in corso ormai da anni, cioè i numeri sono significativi verso Israele, di gente che fa aliao anche senza fare aliao, insomma si trasferisce perché non si sente sicura. Sì, finché è una libera scelta appunto, certo. Dettata anche da motivi religiosi o familiari, questa è più che legittima e anche auspicabile per qualcuno. Quando diventa una costrizione, e lo abbiamo fatto nel giorno della memoria un po' perché io penso a una scritta che è comparsa qualche anno fa qui a Roma, una scritta che mise proprio il movimento culturale studenti ebrei: non ricordate gli ebrei morti se non difendete quelli vivi. Insomma, continuare a celebrare la giornata della memoria solo e solamente rivolti al passato rischia di essere poco utile, non solo per le comunità di fede ebraica, ma per tutti i cittadini europei e quindi anche italiani. E se posso aggiungere una cosa, sono contento che ci sia tanto sdegno di fronte agli zelanti di Palazzo Chigi che hanno coperto le nudità delle statue per non impressionare il presidente iraniano, anche se ricordo che Hollande qualche mese fa fece saltare un incontro diplomatico perché si rifiutò di togliere il vino dalla tavola. Però detto questo, mi sorprende anche che ci sia qualcuno molto indignato di questa copertura delle statue che non si indignò allo stesso modo quando si decise di pixelare, coprire, censurare le vignette di Charlie Hebdo, perché insomma se noi mettiamo quella statua censurata accanto a una vignetta censurata vediamo un po' che mondo diventa se dovessimo rispettare questi dettami del politicamente corretto o chiamiamolo come vogliamo. Bisognerebbe ribadire la libertà d'espressione anche per i fenomeni artistici o intellettuali attuali, non solo per le statue di qualche secolo fa. E ripeto, non ricordate gli ebrei morti se non difendete quelli vivi, non ricordiamo la libertà d'espressione solo per le statue di qualche secolo fa, garantiamola anche nelle redazioni di tutta Europa oggi, da Charlie Hebdo, quindi una redazione di anarchici, intellettuali, a tutti i giornalisti di quale che sia la loro tendenza politica e intellettuale. Ma secondo te è possibile, ipotizzabile, io vedo negli sms degli ascoltatori che arrivano una condanna generalizzata su questa cosa delle statue, però c'è chi ipotizza magari che l'eccesso di zelo sia possibile davvero di un funzionario, del cerimoniale, io ho dei dubbi che si possano autorizzare i pannelli che coprono con un funzionario di quarto ordine, oppure anche di secondo ordine, senza che chi risponde direttamente alle autorità politiche di un evento di questo tipo possa saperlo autorizzare. Io ho i miei dubbi, però me li tengo per me, vedremo che cosa ci dice l'indagine. Però molti ascoltatori, Marco, ci dicono, da un certo punto di vista, se fosse così, cioè se davvero la tesi annunciata da Palazzo Chigi e dal ministro Franceschini fosse confermata, cioè è una cosa che è avvenuta a totale loro insaputa, e per certi versi ancora peggio, perché significa che qualcuno ai vertici, comunque perché di grado elevato della pubblica amministrazione, credendo di interpretare le aspettative della politica per ringraziarsi di quella italiana, ha deciso un'iniziativa di questo tipo senza minimamente comprendere che cosa davvero stesse facendo. Ti convince questa ipotesi di nostro ascoltatore? Sono d'accordo, sarebbe ancora più grave, la stiamo verificando ovviamente, per ora stiamo alle dichiarazioni che ricordavi tu prima. Sarebbe ancora più grave, ma non sarebbe più stupefacente. Insomma, punto. Chiunque ha letto il romanzo di Houellebecq, Sottomissione, sa che la sottomissione non è solo un discorso deciso da chissà quale autorità politica, è un discorso intellettuale, è un discorso dell'uomo della strada, del singolo lettore, e per questo noi con Il Foglio non siamo un giornale che prende decisioni politiche o che dà direttive al cerimoniale di Palazzo Chigi o a chiunque altro, però cerchiamo di instillare questo dubbio. Attenzione, non copriamoci, non copriamo o per paura o per compiacere, perché altrimenti diventiamo un mondo noioso. Charlie Hebdo pixelata, la statua velata, diventa un mondo noioso. e poi soprattutto asimmetrico, perché è un mondo nel quale chi, ripeto, pratica a migliaia la pena di morte, disconosce il diritto all'esistenza di paesi liberi e democratici, ripeto, non significa approvare tutto della politica di Israele, a cominciare i territori occupati e così via, però è un paese libero e democratico. Chi afferma queste posizioni nel concerto internazionale, noi gli riconosciamo i diritti di fare così a casa sua, perfetto, sovranità, finché la esercita, e io invece mi auguro che verrà temperata presto da vera libertà per gli iraniani, però li esercita a casa sua, ma gli riconosciamo il diritto di farlo a casa nostra, cosa che loro a noi non autorizzerebbero mai a fare. Allora, questa asimmetria, e non stiamo parlando della guerra asimmetrica, dell'esportazione della democrazia, cari ascoltatori, questa guerra asimmetrica culturale in cui ci dichiariamo spontaneamente sconfitti è veramente la mancanza ormai di un senso di sé, che poi spiega perché siamo incapaci di un concerto internazionale vero sulla situazione libica, sulla soluzione dei due marò in India, tanto per fare un altro esempio, all'assenza totale di una linea precisa tra sunniti e sciiti e così via. Però la cosa delle statue, io non voglio incolpare nessuno politicamente, la cosa che mi allarma è, dal punto di vista culturale, antropologico, è la mancanza ormai di un senso di sé, chiunque l'abbia decisa. Poi c'è una responsabilità politica però, e su questo rido, perché lo scaricabarile del governo non sana il problema, perché se è avvenuto senza che lo sapessero, mio Dio, è andata bene che è avvenuto solo questo e non incidenti peggiori da un certo punto di vista. Però la figura è di palta. Grazie a Marco Valerio Loprete, torniamo tra un minuto con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora, siamo di nuovo in diretta nell'occasione anche della giornata della memoria. Abbiamo parlato dell'iniziativa del Foglio di oggi, Nagalona Kippale, a tutti i lettori fino a sabato, però lo sfondo è questa incredibile vicenda delle statue autocensurate di fronte al presidente iraniano Rouhani ai musei capitolini, nonché la coda politica di un governo che dice noi non ne sappiamo niente, facciamo un'inchiesta per decidere chi è stato. Allegria doppia. Allora, prima delle telefonate, alcuni di voi, per esempio, mi è piaciuto un tocco di ironia, perdonatemi, e del resto è esplicitamente ironico anche il messaggio che ci ha mandato la nostra ascoltatrice Angela. Angela ci ha mandato un messaggio che dice, ce l'avevo qua, dove sei? Pensate che bello, Rouhani che rompe le fila e si mette a togliere i veli gridando per dirci, per una volta che vengono in Italia apposta per vedere un po' di cose interessanti. Ecco, vabbè, ironia. Naturalmente il più dei vostri messaggi si dividono in chi pensa che sia per affari, questo è, alcuni di voi lo pensano, e altri che dicono no, questo è puro servilismo di un paese che magari ci tiene a sottolineare che altri non lo farebbero anche in Occidente, ma noi facciamo questo e altro. Sentiamo le telefonate invece, cominciamo con Giuseppe da Varese. Buonasera Gianni. Buonasera. Buonasera, grazie. Niente, io cerco di essere sintetico. La prima cosa, un po' ironica anche da parte mia, è che abbiamo fatto la figura delle parti coperte, sì, cioè la parte della figura dei coglioni, scusi l'espressione, ma intendo dire questo: rinunciare a dire ciò che siamo, non a imporre ciò che siamo, a dire ciò che siamo, la nostra storia, limita la possibilità di dialogo. Addirittura, secondo me, abbiamo offeso il presidente iraniano, perché abbiamo limitato la sua capacità di capire e di comprendere ciò che siamo, capisce? Secondo me è veramente stupido, perché la possibilità di dialogare con altri è dire ciò che siamo, chi è la nostra storia, ciò in cui crediamo. Se io dialogo con qualcuno e non dico ciò che sono, ciò cui credo, limito drasticamente la possibilità di ragionare con lui e di comprendere la sua realtà e di far comprendere ciò che siamo noi, ciò che sono io. Ma Giuseppe, io ti dirò, è quello che mi colpisce, è pensare al nudo di una statua. Se dovessimo applicare questo metro, cioè, è chiaro che non sarebbe mai potuto avvenire, per esempio, un incontro come quello in cui in Vaticano il Papa ha ricevuto Rouhani, perché potete immaginare che nella graduatoria della gravità, per così dire, delle possibili blasfemie e apostasia per uno sciita che sta sotto la guida suprema del credo sciita, che è Ali Khamenei, e quindi il supremo guardiano della rivoluzione, potete immaginare che visitare il luogo sacro della cristianità dovrebbe essere ancora 100 volte più grave. Quindi vuol dire proprio non avere gli strumenti per capire come funziona il mondo, secondo me. Posso sbagliare, ma io la penso così. Che ci dice invece Ingrid dalla provincia di Torino? Prego. Buonasera, dottor Giannino. Oscar, basta. Oscar. Dunque, a me sembra che ci sia proprio una forma di generalizzazione e strumentalizzazione di questo episodio, ma quello che veramente mi... Aspetta Ingrid, cioè secondo te stiamo tutti sbagliando a ingigantirlo? No, non stiamo sbagliando a ingigantirlo, stiamo semplicemente rendendoci conto di avere a che fare con delle persone che evidentemente hanno paura della propria ombra, perché dinanzi all'arte... ci si dovrebbe solamente inchinare, nel senso che l'arte sta al di sopra di tutto. Non vedo perché dinanzi a una persona che mi pare di intendere sia cosmopolita, abbia fatto un percorso scolastico a Glasgow, sia una persona, insomma, di tutto rilievo e cultura, ci andiamo a creare dei problemi e a andare a coprire delle statue, andando comunque anche ad inficiare quella che è la perla della nostra nazione, perché ringraziando l'Italia è un paese straricco di arte. Ma infatti. Ecco, mi sembra veramente... Però Ingrid, evidentemente il significato profondo di quello di cui la storia e grandissime generazioni di menti successive ci hanno dotato e di talenti non ci è molto chiaro, se addirittura le più alte autorità politiche e istituzionali mettono in atto comportamenti di questo tipo. Io sono molto d'accordo con te, perché non è che Amore e Psiche è un film porno, però la statua, voglio dire, del Bernini. Però detto questo, purtroppo avviene. Secondo me questa vicenda, voi non vi rendete conto, ma se date un'occhiata ai siti o ai giornali internazionali, vi renderete conto di quali sono i toni che vengono usati nei nostri confronti, che sono a metà tra... lo stupefarsi assoluto, cioè, ma come gli è venuto in mente, e dall'altro la derisione pura. Ecco, quando vengono queste cose io mi amareggio, perché santa corpo di mille balene, ma com'è possibile che riusciamo sempre a fare figure di questo tipo? Daniele da Roma, come la pensi? Io sono veramente colpito, perché il discorso è semplicemente questo: come al solito in Italia i politici fanno scarica a barile con le teste di legno, che a quel punto dovranno prendersi la colpa. Però il discorso è semplicemente questo: o Renzi, siamo onesti, non è in grado di intendere e di volere, quindi passa davanti a un obbrobrio del genere e non si rende conto, e quindi togliamogli subito il volante perché è pericoloso, oppure praticamente è colpevole, perché lei immagini Papa Francesco che mettesse dei veli sulla Cappella Sistina, oppure passasse davanti la Pietà dove gli hanno messo una bandana, passasse senza far rimettere immediatamente tutto a posto. O per meglio dire, Daniele, in realtà nella Cappella Sistina ci furono interventi che misero le braghe ai nudi, però avvenne all'inizio del 500, del 1500, Daniele da Volterra, cosiddetto il braghettone, cioè stiamo parlando... L'Italia nel 2015, la Repubblica Italiana, ha fatto ciò che la Chiesa Cattolica fece all'inizio del 500, per poi pentirsene secoli fa. Ecco, anche questo paragone storico da te evocato mi impressiona, perché siamo tornati indietro come Repubblica Italiana 600 anni indietro rispetto alla storia della Chiesa. E santo Dio benedetto, anzi 500 anni indietro, è un po' eccessivo come errore. Andrea da Genova, come la pensa invece? Io, Oscar, ciao, la penso in maniera totalmente diversa, nel senso che secondo me rischiamo veramente un incidente diplomatico. Non si può presumere che al di fuori dei paesi occidentali ci sia soltanto ignoranza e meschinità. Bisogna pensare che un diplomatico, un politico, uno statista di un'altra nazione possa apprezzare e conoscere perfettamente quella che è la storia. Tu quindi dici in realtà è comprensibile quello che hanno fatto? No, non è comprensibile, esattamente creare un incidente diplomatico, cioè coprire è una cosa razziale, lo sguardo razziale che abbiamo verso il Medio Oriente. Noi non riusciamo a toglierci questo sguardo razziale, che l'ebreo era un banchiere ladro, il negro era un ignorante e non aveva il cervello per arrivare a Totte. E Gheddafi aveva bisogno di 50 hostess quando è arrivato qui in Italia? ci volevano le hostess. Chiaro. Quindi perché tu dici è stato un atto di superbia intellettuale, di mancato rispetto nei confronti dell'Unione della delegazione iraniana. No, no, questo capisco. Adesso ho capito che cosa vuoi dire. Sia come sia, cari ascoltatori, ne usciamo ridicolizzati. E questo mi dispiace molto. Appuntamento domani mattina alle 8:15 insieme a Alessandro Milan. Attenti a noi due, vedrete che parleremo di una bella domanda. Fare come la Danimarca ed espropriare di 1.400 euro ogni profugo che arriva in Italia. Che ne pensate? Ne parleremo comunque domani mattina. Intanto continuate con Radio 24.